Voglio, voglio colla con la voce, voglio, voglio colla con la voce, piglio, piglio, allo, allo, disco, piglio, piglio, allo, allo, allo. Voglio entrare con la voce dentro casa tua e portarti nel mio mondo con la fantasia. Voglio entrare con la voce dentro casa tua e portarti nel mio mondo con la fantasia. Voglio entrare con la voce dentro casa tua e portarti nel mio mondo con la fantasia. Artificiale.